Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Diamo il via dal Groove Master Studio a questa puntata del Soundcheck, esattamente la 324 della prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche ai miei compagni di avventure ormai da un po' di tempo. Questa sera tutti riuniti come una bella famigliola. Eccoli qui, Silvia Barba e Francesco Tromba. Buonasera e bentornati. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Tromba. Posso dirlo? Sono molto felice di vedervi e di affrontare insieme questo appuntamento di musica. Grazie, grazie per averci di nuovo invitato qua. Figuratevi. Poi voglio ringraziare tutti gli amici di Radio 24 che continuano a dimostrare il loro affetto attraverso tutti i sistemi telematici a nostra disposizione, a partire dalla nostra email, che è sempre quella, soundcheck@radio24.it, e poi tutti i contatti attraverso Facebook e Twitter che curate voi personalmente. Quindi non mi assumo la responsabilità di tutto quello che succede, perché io neanche vado a controllare. Non controlli, però noi le cose più importanti te le riportiamo, è vero? Sì, no, mi riportate soltanto le critiche, le critiche, i commenti. Invece non mi riportate mai i complimenti, che invece abbondano. Beh, le critiche sono importanti perché sono sempre costruttive, no? E infatti noi stiamo costruendo, continuiamo a costruire, no? Perché poi alla base di tutto nella musica c'è che non bisogna mai dare nulla per scontato, e noi insomma è un po' la nostra filosofia di vita questa. È vero, è vero. Allora, oggi intanto vorrei anticipare che nella seconda parte del Soundcheck, quindi subito dopo l'informazione delle ore 20, verrà a trovarci un giovane talento italiano, una mia conoscenza diretta. Lo conosco molto bene artisticamente, ma lo conosco anche molto bene come persona, perché appartiene alla mia famiglia. Però oggi tocca parlare di lui, tocca parlare con lui, perché ha appena pubblicato questo album, imminente l'uscita, forse è già uscito ma ce lo dirà lui, album intitolato Generation One, che ha come protagonista Ainè, ovvero nato come Arnaldo Santoro, poi nel corso degli anni si è trasformato in Ainè, che è il nome d'arte, ma è con questo nome che sta ottenendo grandi consensi nel circuito contemporaneo del contemporary R&B italiano, se esiste questo circuito in Italia. Glielo chiederemo. Secondo me non esiste ancora del tutto, non è del tutto sviluppato. Però c'è un gran seguito, perché vedo che quando vengono gli artisti di riferimento da Robert Glasper, che certo è a cavallo fra il jazz contemporaneo e l'R&B, ma D'Angelo, poi il pubblico c'è che va a seguire queste cose, no? E come? Forse in italiano è più complicato scrivere musica su questi groove e su questo andazzo ritmico. Però lui si fa conoscere anche dagli artisti internazionali. Poi ti racconterò un aneddoto che tu già sai, ma che noi abbiamo potuto seguire qualche mese fa. Ma vero o no? Verissimo, ma ne parleremo con Ainè in person dopo l'informazione delle 20 di Radio 24. Direi di andare subito al primo brano in programma. Torniamo ad ascoltare e a parlare di questo talento che arriva da Brooklyn, anche lui giovanissimo. Si chiama Alexander Claffy, polistrumentista, eccellente contrabbassista. Album nuovissimo per lui per Rope Dope Records New York. Sì, e viene da una famiglia di musicisti, perché sia il padre era un pianista, invece la madre era una cantante, quindi mastica musica fin da quando era ragazzino, e si vede, si nota soprattutto in questa produzione, perché riesce a suonare tantissimi strumenti, dal basso al contrabbasso, le tastiere, canta, sa fare praticamente tutto, anche le percussioni. E anche lui, un po' come tutti gli artisti di Rope Dope, si muove a cavallo fra il jazz contemporaneo, l'R&B, il soul. Insomma, questo è il suono di New York City, giovanissimo Alexander Claffy al Soundcheck con Don't Let It Bring You Down. E lo abbiamo detto, da non perdere l'album di Alexander Claffy, semplicemente Claffy, questo è il nome d'arte per questo giovane talento che arriva da Brooklyn, album per Rope Dope Records. E a questo punto direi di tornare ad ascoltare qualcosa dal nuovo album di Gregory Porter, un omone gigantesco, credo più o meno 2 metri, poteva fare di tutto nella vita, dallo spaccalegna al giocatore di football americano. Invece ha scelto il canto e lo fa molto bene, ha cantato nei musical bellissimi bellissima voce, molto versatile, però ormai si sta ritagliando una fetta di mercato importante. Il genere di Gregory Porter è fra il jazzy e un po' jazzy, non completamente jazz, e il soul, composizioni originali. Credo che Silvia Barba lo abbia anche apprezzato dal vivo a New York un po' di tempo fa. È vero, ero a New York e lui fece un concerto molto bello alle Poisson Rouge, che è un locale che sta al Greenwich, e dopo il concerto si fermò a parlare con tutti i suoi fans, foto, autografi, davvero molto gentile, nonostante insomma sia un molto conosciuto, abbia vinto anche dei Grammy per il suo album precedente che era Liquid Spirit. Esatto. E poi piace a tutti, piace davvero a chi si intende di jazz, ma anche a chi invece vuole ascoltare delle belle canzoni. È vero, piace a tutti, piace anche alla mia mamma, perché ci siamo ritrovati, pensa, con Gregory Porter e Kurt Elling, ecco, al Festival Jazz lì a Orvieto, Umbria Jazz Winter, sì, alcuni anni fa. Eravamo i vocalist di quella edizione e a mia madre piacque tantissimo il concerto di Gregory Porter. E è piaciuto più Gregory Porter di te? No, mamma mamma è sempre la mamma, però Gregory Porter non scherza. Allora, Gregory Porter con Don't Lose Your Steam al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E anche questo è un bel talento che abbiamo già proposto al Soundcheck, quello di Kendra Foster, vocalist, compositrice, autrice, collaboratrice di D'Angelo. Per questo la nostra Silvia Barba la invidia moltissimo, troppo, non tanto per il talento, più che altro per la sua stretta collaborazione con D'Angelo. È vero. È vero. Però ti posso raccontare un altro aneddoto. Ora sembra che io sia sempre a New York, però eravamo vicini al concerto, a un private show di Thundercat. E lei tu era... e Kendra Foster. Esatto. Mm-hmm. E lei ballava come una pazza. Sì. Davvero si è divertita molto. Poi ha twittato vari video, eccetera, di quel concerto. E io ce l'avevo vicino a fianco, l'ho riconosciuta, però non gli ho detto nulla, se non beata te. Beata te che conosci D'Angelo. Sì, che ci collabori. Vabbè, ma prima o poi ti toccherà incontrarlo, eh? Tu fai qualcosa. Guarda, per la, questo la prossima volta che arriverà in Italia farò, okay, in modo che tu possa andare come inviata del Soundcheck a intervistarlo. Allora siete tutti testimoni di questa promessa di Gegè Telesforo. No, ti manderemo come inviata. Tromba ha intervistato diversi artisti, da come si chiama, Taylor McFerrin, però aspetta Lian Lahavas lui. Ecco. Assolutamente, lei subito. Vado in cima alla montagna per Lian Lahavas. Sì, ovunque. Ma dove li trovi i tuoi collaboratori così disponibili? Allora, da Kendra Foster a The Flow Down, mio caro Tromba, questi ci piacciono tanto. Eh sì, basta guardarli in faccia per capire anche che tipo di musica fanno, cioè riescono a mischiare qualsiasi genere, perché appunto ci sono degli artisti, è un quartetto innanzitutto, c'è un ragazzo che sembra un indiano, appunto, un altro sembra un giamaicano, sono veramente bellissimi e coloratissimi anche da vedere. Ecco, musica che propone vari elementi, diversi generi, diversi stili, ma lo fanno con grandissima classe e un grande equilibrio. The Flow Down, il brano si intitola West World al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. La voce, il suono inimitabile di Prince al Soundcheck di Radio 24, poco più di un mese dalla scomparsa di questo grande artista che anche noi abbiamo voluto ricordare con una bellissima puntata. Abbiamo avuto un bellissimo feedback per aver proposto non i brani di successo di questo grande artista, ma i brani che piacciono a noi, quelli dove veniva fuori il carattere del grande musicista, arrangiatore e compositore qual era Prince. Il brano, lo ripeto, You Know, qui al Soundcheck di Radio 24. Beh, una generazione, non solo quella attuale ma anche probabilmente quella precedente, che si è formata attraverso il suo insegnamento, anche perché è stato davvero un artista che non solo ha lavorato per se stesso ma soprattutto per gli altri, scrivendo dei brani ovviamente quelli più conosciuti per Sinead O'Connor, per Chaka Khan eccetera, ma non solo per quello, proprio per una filosofia di lavoro maniacale, se vuoi anche molto attenta, molto precisa, che ha formato davvero dei musicisti e che a lui si sono riferiti in qualche modo. Sì, e che ha portato le nuove generazioni ad apprezzare il sound classico, il funk classico di James Brown fino all'hip hop di, esatto, di oggi. E in quanti artisti di oggi dici questa cosa l'ha presa da Prince? Sì, e poi comunque ha lanciato tantissime band, tantissimi artisti, per dirne le ultime due che ha lanciato, Lian Lavas e Le King, che appunto hanno comunque avuto un gran successo. Senza di lui magari sarebbero comunque esplose, però ci avrebbero messo magari più tempo. E anche la giovanissima Judith Hill, che a noi piace tanto, vero Silvia? Io adoro, è vero. Allora, chiudiamo questa prima parte del soundcheck ricordandovi che subito dopo l'informazione delle 20 avremo nostro ospite Ainè per parlare di questa collaborazione. Collaborazione con Sergio Cammariere, album in italiano molto bello e anche sorprendente perché propone il sound tipicamente black contemporary R&B ma in italiano, che ha le sue belle difficoltà, e poi anche per parlare di questo album per lui in uscita, Generation One, la sua prima pubblicazione, per questo ragazzo che io conosco bene e che sono contento di ospitare qui nel nostro Groove Master Studio. Quindi ci risentiamo fra pochissimo, chiudiamo questa prima parte con una versione di Purple Rain proposta dalla voce jazz di Holly Cole, e anche questo arrangiamento è molto bello. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck dopo l'informazione qui su Radio 24, e anche pronti per accogliere nel migliore dei modi Ainè, ovvero Arnaldo Santoro, mia vecchia conoscenza. Ci conosciamo praticamente da sempre, lo abbiamo detto più volte e lo dichiariamo ancora una volta, siamo parenti, abbiamo lo stesso sangue, perché questo signore è figlio di mia sorella. Se non fosse che quando aveva 17 anni personalmente sono andato a chiedere a mia sorella il permesso per portarlo in tournée. E dopo aver fatto tanti concerti con la mia band, dopo aver studiato alla Venice Boys Academy di Los Angeles, dopo aver preso un full credit borsa di studio alla Berklee College of Music di Boston, il nostro Arnaldo Santoro, Ainè, ovvero mio nipote, eccolo qui che propone Generation One, il primo album da solista della sua carriera, anticipato da un singolo bellissimo che sta andando molto bene, ovvero Dopo la pioggia, scritto da Sergio Cammariere e Roberto Kunstler. Credo di averti fatto una bella presentazione. Ammazza, anche troppo. Buonasera ragazzi. Non potevo non farti una bella presentazione, sennò poi mia sorella, ovvero tua madre, mi chiama e mi fa: ma come è venuto mio figlio? Esatto. Non l'hai trattato? L'hai trattato male. No, allora già però l'hai portato verso la cattiva strada, no? Ho tentato di portarlo verso la cattiva strada, nel senso di portarlo un po' di più verso il mondo del jazz, ma ci sono riuscito in parte, perché lui è veramente fissato sul groove di Angelo Glasper, contemporary R&B, partendo però da Michael Jackson. È vero, cioè Michael Jackson ce l'hai nel cuore. Sì, Michael Jackson è tutto, è, insomma, lo studio, la radice, tutto è dentro di me, quell'uomo. Ok, dalla avete testa detto ai piedi. Tutto, però non ci avete detto come è nato questo nome, Ainè. E cosa significa, se ha un significato? Ainè non ha un significato vero e proprio. Mi è venuto perché da Arnaldo mi piaceva dare un nome che non fosse collocabile né di sesso né di luogo, né, quindi Arnaldo, Ainè mi è venuto. Una sorta di entità. Esatto. Hai capito? Esatto, perché inizialmente era partito le iniziali di armonia, intonazione, note, emozioni, Ainè. Beh, allora dai, di questo. Beh, come significato. Sì, questa è un po' carino. Una cazzata, però è carino, dai, ok. È carino, no? Non lo sapevo, a me piace questa cosa qua. A papà è piaciuta questa cosa? No. Ecco. Gliel'ho chiesto perché noto molto spesso, quando gli fanno i complimenti su Facebook, gli scrivono: Ainè, è bellissimo questo brano con Sergio Cammariere, il padre mette la sua nota, non si chiama Ainè, si chiama Arnaldo. Esatto, vedi? Sì, così. Beh. C'è questa cosa del nome in famiglia, però insomma, che porto con piacere, però insomma... La musica è un'altra cosa, insomma, mi piace avere un altro nome. Allora, io volevo chiederti, intanto so che appunto sei andato in tournée con JJ, quindi hai collaborato già con musicisti che sono dei veterani, diciamo, del jazz. Dall'altra parte, nel tuo disco c'hai tuoi coetanei bravissimi che suonano insieme a te e che appunto creano questo nuovo disco, quindi un incontro, una sorta di incontro di generazioni. Cosa hai imparato dall'una e cosa hai imparato dall'altra? Beh, ho imparato tanto perché, come hai detto tu, ho avuto la possibilità di avere in questo progetto tutti ragazzi giovani, quindi ogni mente era sempre più fresca, sempre più figa, sempre più funky, no? Quindi confrontarsi con ragazzi dell'età tua o poco più grandi è sempre più bello, insomma, perché ci capiamo, no? E soprattutto confrontarsi con giovani anche di altre nazionalità, perché nel disco ci sono moltissime collaborazioni di musicisti americani e, insomma, da gran parte dell'Europa anche, quindi abbiamo mischiato un po' le culture ed è stato un bel risultato. Sei contento? Molto, molto. Va bene, allora vediamo che cosa hai combinato. Allora ascoltiamo subito il singolo Dopo la pioggia, featuring Sergio Camariere, che partecipa anche alla realizzazione di questo brano che anticipa Generation One, album pubblicato da qualche giorno anche nel nostro paese. Soundcheck, il suono della musica. Ebbene sì, questo brano l'ho scritto proprio per lui, anzi quando stavo facendo i provini di Last Goodbye, Arnaldo, che aveva 17 anni, era proprio qui nel Groovemaster Studio e gli chiesi di cantare la melodia. Fatto sta che la cantò così bene che poi si è ritrovato in questo album, forse la prima partecipazione ufficiale discograficamente parlando per Aine, che è il nostro ospite qui al Soundcheck. Last Goodbye, tratto da New Joy, con il testo scritto dalla bravissima Greta Panettieri, che sarà con noi la prossima settimana per parlare di Fun Slow Ride, progetto al quale hai partecipato anche tu, mio caro Arnaldo, e niente, Aine è nostro ospite, sono contento di vederti perché ormai da quando fai il musicista è sempre più difficile incontrarci. Sì, infatti sentendo questo brano e ricordando quei bei momenti mi viene un po' la lacrimuccia, perché sono stati momenti bellissimi e io li rivivo con grande piacere e gioia, insomma. Senti, fai un genere molto particolare in Italia, ne abbiamo parlato forse anche prima, dicendo che non è molto sviluppato, non è molto conosciuto, sei un po', come dire, una perla in questo panorama musicale italiano. Io volevo chiederti però cosa ne pensi del fatto che Nicholas Payson nel 2012 ha tenuto una serie di conferenze a New York parlando con una sigla che è BAM, Black American Music, soprattutto del jazz, di canoni tipici della musica black, che sono particolari, che appartengono a loro e che forse noi possiamo riprodurre, ma non saremo mai bravi quanto loro. Tu che fai invece questo genere e che quindi può essere applicato appunto all'R&B, al funk, a tutta la musica contemporanea, che chiami crew, il tuo staff, che bro, sister, eccetera, eccetera, cosa ne pensi? Ma io non, a dire la verità, faccio musica non pensando a niente, né al genere, né agli artisti, né a chi, cioè io faccio musica perché faccio quello che mi viene più spontaneo, cioè scrivere musica. Poi non so se voi la chiamate soul, R&B, hip hop, jazz, non lo so, io scrivo e mi diverto a fare questo, quindi non saprei rispondere. Bravo, mi a sei piaciuto domanda. Un po' come Miles Davis. Miles Davis diceva così, bravo. Yeah. Beh, bravo. Che riferimento, dai. Sì, non scrivo musica perché mi piace fare, non penso a niente quando scrivo, se non a emozionarmi mentre lo faccio. Io volevo chiederti appunto di raccontarci intanto un episodio che ho seguito anche tramite i tuoi social, ovvero quando hai suonato insieme a Common in un locale romano, se ci puoi raccontare proprio per intero la vicenda, sì. Com'è andata? Quasi un momento di infarto. Comunque niente, praticamente eravamo a questo concerto al Co-House, in questo locale molto bello romano, in questo locale molto, insomma, figo, molto possiamo dire figo, si può dire. L'hai detto, vai avanti. Vabbè, insomma, stavamo suonando e a un certo punto vedo la testa di una persona. Un pelato. Esatto, la testa di un pelato. Nero però. Esatto, nerissimo. E siccome giorni prima mi ero accorto che aveva postato delle foto a Roma, la prima cosa che ho detto, ragazzi, c'è Common, e tutti a dire, ma che cazzarola dici, non dire cazzate, impossibile. Io, insomma... ho detto, ragazzi, quello è Common, fidatevi. O Common o Telly Savalas, che è morto e quindi non poteva che essere Common. Fatto sta che appena iniziamo il concerto, non si sa come, non si sa perché, Common si è venuto a sedere, diciamo, davanti a me, insomma, con un tavolo con 10 persone, 5 Nerone, sì, 5 super Nerone proprio di quelle super underground e altre 10 persone, si è seduto davanti a me e noi abbiamo fatto tutto il concerto in questa situazione, quindi capitemi bene, capitemi e basta. Ecco, ti abbiamo capito, fatto sta che Common poi si è lasciato andare, è salito sul palco e esiste anche questa testimonianza che è stata filmata e proposta su Facebook e tra l'altro sono contento perché poi anni fa abbiamo conosciuto insieme Robert Glasper che ancora non aveva ottenuto il successo di questo periodo, i Grammy Award, poi è stato proprio qui nel Groovemaster Studio, abbiamo fatto una jam insieme a Glasper con gli Experiment e poi sei stato coinvolto al Locust Festival dove hai aperto il concerto di Robert Glasper. Quindi diciamo appunto sei, nonostante tu sia giovane, hai già avuto diciamo hai già condiviso il palco con due artisti di livello e di fama internazionale. Sì, no, la cosa diciamo che ci ha sorpreso è che, volevo dirla prima, me ne sono dimenticato, è che il giorno dopo che è successa quella cosa di Common, che è salito sul palco, mi ha chiamato personalmente tramite la manager e mi ha chiesto di andarla a trovare in studio, nello studio dove noi abbiamo registrato il disco alla Forum qui a Roma, e praticamente è iniziato da lì un contatto, cioè noi ci sentiamo, insomma i nostri manager si sentono periodicamente e aspettano l'album che gli manderemo. Perché fate parlare i manager e non parlate voi? Questo non lo capisco, voi, no? Fra artisti si fa prima, no? Io non mi ha voluto dare il suo numero, Gigi, non lo so. Però l'ha dato. Vabbè, va. Chi ha detto Robert Glasper? L'abbiamo detto tutti, Robert Glasper, eccolo qui, Robert Glasper che rivisita Miles Davis con Bilal. Il brano si intitola Get a Walking al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. At night you dream asleep, you walk, and lately you've been falling. A voice you knew when you were young has once again been calling. Who could it be you're dreaming of? Who are you falling for, my love? Not one to wonder off, and still I'll ask you in a hurry. Who could it be you're dreaming of? Who are you falling for, my love? Impossible to sleep with all your tossing and your turning. The sheets are pulled and you are cold, imagination burning. Who could it be you're dreaming of? Who are you turning to, my love? Not one to wander off, and still I know I have to hurry up. Who could it be you're dreaming of? Who are you turning to, my love? Calling out a new name, ringing a new beginning. Let's fall in love again. All we ever wanted was to feel the same. So this is who we're dreaming of, and what the beating heart to love. Could it be you're dreaming of? Who are you falling for, my love? Not one to wander off, and still I ask you in a hurry. So this is who you're dreaming of, another beating heart to love. Thank you. A grande richiesta Next per Fans Low Ride featuring Alan Hampton, e a grande richiesta, anzi una richiesta diretta fatta a pochi centimetri di distanza, perché questo è uno dei brani preferiti dal nostro Ainè di questa produzione alla quale hai partecipato anche tu. E io voglio ringraziare personalmente Arnaldo per avermi dato la possibilità di capire subito come funzionavano le melodie di alcuni brani originali scritti proprio per Fans Low Ride, album che sta facendo il suo percorso in Europa e che fra pochissimo sarà pubblicato negli Stati Uniti proprio per Rope Dope Records. Siamo onorati perché è una delle nostre etichette preferite, e approfitto anche per ringraziare uno dei più grandi creativi italiani, digital storyteller di fama internazionale, Felice Limosani, per aver realizzato una clip meravigliosa. Ha immaginato questa storia d'amore raccontata da Alan Hampton in questa composizione intitolata Next, in un mondo fatto di piuma d'oca. Meraviglioso, grazie Felice. Sì, è interessantissimo anche proprio seguire il percorso di Felice Limosani, perché è un personaggio che merita tantissimo, secondo me uno dei più interessanti che ho incontrato in questi anni. Diciamo che questo Fans Low Ride è un progetto che coinvolge tantissime personalità, e la filosofia che appunto guida questo gruppo di musicisti e non solo, di artisti in generale, è quella appunto di creare delle connessioni pazzesche anche tra diverse culture, e soprattutto con un unico obiettivo, quello di fare della buona musica e far riflettere. Tu hai partecipato a questo progetto, cosa hai acquisito da questa esperienza? Beh, prima di tutto voglio ringraziare Gegè per avermi, insomma, ripescato dal cilindro per questa sua nuova produzione che trovo sia veramente bellissima. E come ha detto prima, uno dei miei brani preferiti è proprio Next. Anche il mio. E lo amo proprio, è un pezzo che adoro, e auguro a questo brano, a questo progetto, il meglio, perché se lo merita veramente di cuore. E ricordami la domanda che hai fatto, no, ero cosa perso hai in acquisito, Next. No? Ah, questo... no, è stato una grande, è stato fighissimo, insomma, stare con tutti questi grandissimi musicisti, sempre a contatto di menti geniali, di musica geniale, insomma, fa bene. Io ho 24 anni e ho bisogno di questo, quindi insomma, fa bene allo Tra l'altro spirito. Dovrai andare a Boston a usufruire di questa borsa, esatto, di studio. Cosa invece, sì, ti aspetti da quel tipo di esperienza? Lì sono gli americani. Sì, ma io non ho paura degli americani. Io non ho paura degli americani perché a Common sono piaciuto, quindi ecco, non sto scherzando. Lo puoi sempre dire. Esatto. Però no, anche quella è stata una cosa davvero inaspettata. Avere la borsa di studio come unico cantante maschio tra scritti da tutto il mondo lì a Umbria Jazz è stata una botta pazzesca. E credo che potrò solo che raccogliere cose meravigliose e positive da questa scuola meravigliosa e dagli americani in quello che fanno e come lo fanno. Bene. Allora, rivediamo che cosa hai combinato tu per Fans Low Ride. Hai partecipato a Let the Children, brano scritto insieme ad Alfonso De Ida, con un testo splendido scritto a quattro mani dalla nostra bellissima Greta Panettieri e da Ben Sidran, musicisti eccezionali. Vorrei ringraziare quindi Sebi Burgio, Pasquale Strizzi, Dario Panza, fratello Joseph Bassi. In questo brano c'è anche Amin Salim al contrabbasso, poi un po' alla volta li citeremo tutti. Eccolo qui, Let the Children, brano scelto dall'UNICEF, ed è grazie ad Arnaldo Santoro, Ainè, per la partecipazione. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Neil Novi, il mio album preferito per Blue Note Records. Artefice il sassofonista Marcus Strickland con Twilight. Questo è il nome della band che guida questo meraviglioso talento di New York. La voce di Jim Baylor, il brano intitolato Alive. Questo è il Soundcheck Radio 24. Ancora qualche minuto a nostra disposizione per salutare soprattutto Ainè, fargli complimenti per questo album intitolato Generation One, album al quale hanno partecipato vari musicisti, lo abbiamo detto, alcune guest internazionali come il bassista di Marcus Strickland, che è presente anche nel tuo disco. Non è male. No, non è assolutamente male, anzi è stato un grandissimo piacere ed onore averlo sul nostro album. Come si chiama? Kyle Miles. Kyle Miles, che ha lavorato anche con Herbie Hancock. Ma che ficata, adesso potrà scrivere nel suo curriculum Marcus Strickland, Herbie Hancock, Aine. Esatto, ora è in tournée anche con Chris Dave, quindi insomma è in un buon giro. Che è il batterista di Marcus Strickland. Esatto, quindi D'Angelo, Eric Abbado e tutti gli altri. Che ballacche, esatto. Gli altri ospiti invece del disco chi sono? Perché allora, ho detto ci sono grandi nomi. Sì, allora avremo il tuo amico Shorty nell'album, poi ci sarà Gammon. Shorty e Davide Shortino. Sì, Davide Shortino, e poi ci sarà Gammon, Gemello, che sono tutti dei rapper della nuova scena della generazione qui in Italia, molto, insomma, molto forti secondo noi, quindi abbiamo voluto averli nel nostro album. Hanno scritto loro i testi dei loro rap? Sì, tutto scritto da loro. E chi sono gli autori dei brani? Allora, la maggior parte dei brani li ho scritti personalmente con la musica. Sì, esatto. E per quanto riguarda i testi, come autori ci sono Jasmine Tommaso, Greta Panettieri, Samuele Cerri, Andrea Amati e Gianluca Picariello, che sarebbe Gammon, che con cui abbiamo scritto un paio di brani. Io volevo farti un'ultima domanda, ti volevo chiedere, visto che comunque sei giovane, hai suonato tantissimo, hai fatto comunque anche tanta gavetta, dal tuo punto di vista i reality musicali hanno un senso, possono essere utili per un ragazzo per lanciarsi in questo mondo? Shortino, che ti ha detto dopo l'esperienza X Factor? No, che è stata una bellissima esperienza, gli è piaciuta e insomma that's it. Insomma, quello che penso è che la nostra età, la cosa fondamentale, io la penso un po' come Red Ronnie su questo argomento. Come Red Ronnie? Esatto, sì, giuro che la penso come lui. E che pensa Red Ronnie? Red Ronnie praticamente pensa che a oggi questo mondo dei reality abbia un po' non lo so, rotto? No, ma non rotto, come vuoi tu, però abbia un po' oscurato quello che è la realtà del percorso che un artista della nostra età deve fare, cioè lo studio, la gavetta, cioè ci vuole tempo, cioè non è che boom in un secondo e poi si torna, purtroppo, perché la vita ti riporta giù. Beh, no? Io adesso non voglio fare un salto nel passato, nella preistoria, però ai miei tempi realizzare un disco era un punto di arrivo, adesso si parte direttamente proprio l'inizio della carriera, una registrazione discografica, poi se è supportata anche da un programma televisivo, ecco, sei già una star di prima grandezza. Sì, è quella la cosa che non va bene, perché poi diventano star ma in verità non lo sono, quindi le gaffe le si notano. Se in un ragazzino di 17 anni boom, subito sparato a palla, si vede che non ha l'esperienza di un ragazzo di 26-27 anni, quindi. Va bene, tu andrai in tournée quest'estate, farai concerti probabilmente settembre-ottobre, no? Perché adesso dovrai seguire l'album in promozione e poi quando ti dovresti trasferire a Boston al Berklee College? Se tutto va secondo i piani dovrei andare gennaio, quindi dopo la tournée insomma andare lì e vedere cosa succede. Vabbè, allora abbiamo modo di cenare con papà e mamma, no? Certo, facciamo una braciolata tutti insieme. Beh, invitateci. Tu, però, perché io non mangio più carne, lo sai, e quindi preparatevi. La mangiamo io e Tromba al posto tuo. Va bene, grazie a Silvia Barba, Francesco grazie Tromba, grazie a Enea Arnaldo Santoro, in bocca al lupo per Generation One. E noi ci risentiamo domani sera, che c'è Maxi Onata domani, wow, che presenta il nuovo album Organ Trio, con l'album si intitola Rewind. Quindi a tutti voi buona serata e buona musica da Gigi Telesforo. Chiudiamo con All I Have To Say, e qui ce la cantiamo proprio insieme con il nostro Aine.